cosa ascolti quando non sai cosa ascoltare. Io ascolto le pagine spostate dal vento del mare. Non ascolto più niente, rispose piangendo. Da quando da dietro una cattedra mi hanno uccisa dicendo: la tua è malattia che cresce piano piano. L'unico modo per vivere è scappare via e lontano. Mi hanno sparato un colpo, un proiettile di fiato, dando un senso compiuto ed un significato a quello che provavo anche quando io ridevo. E mentre lo sognavo, tutto dentro mi collava, ma sognavo di fuggire, di realizzare i desideri, partendo da quelli più veri, arrivando a quelli seri. Una casa, un giardino ed un padre che mi amasse, invece scuro questo mostro mi illudeva che bastasse adagiarsi alle paure, ai timori e alla vergogna, contare alla rovescia sulle dita quanto manca, ad azzerare i conti e a volare su una stella. La seconda a destra, non ti sbagli, ancora quella. Sono il Peter Pan della generazione bruciata, nata senza musica e con la testa programmata. Una invita in bilico tra numeri da rispettare, ma limiti da abbattere per tornare ad osservare quelle nuvole lontane, intrise di parole. Ma è più facile dormire, adagiarsi su un guanciale, con accanto chi ti ama, che sussurra ci sarò, e umano credere alle bugie, senza mai, senza però. Ma io non credo al nostro domani, io credo al nostro oggi, credo alle tue mani, ai tuoi occhi, ai tuoi sogni, ai nostri sforzi, di correggerci fra le righe, di parlare bene d'amore, esprimendoci in rime, io di note, tu di colori. Scuotimi e vedrai, cadranno mille fiori, del male come Baudelaire, forse sono un